Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi parliamo di hip hop. E nell'hip hop ci sono molti protagonisti che magari hanno delle carriere meravigliose ma molto brevi, gente che non arriva al terzo disco. Bene, noi parliamo di un personaggio che ha sfornato 12 album in 13 anni, una delle carriere più longeve e prolifiche in questo settore. E merito del suo talento, ma anche di uno spiccato spirito imprenditoriale che lo ha portato a creare la sua etichetta, la sua label dal nulla, la Rockefeller Records, con la quale lui si autoproduce i dischi e trova un distributore ancora prima di pubblicare un solo album. Oggi alcuni lo conoscono prima di tutto per la sua storia d'amore con Beyoncé, ma lui è uno super autonomo, anzi forse Beyoncé è più facile che sia lui a mantenere lei che lei a mantenere lui. Insomma, parliamo di un uomo che arriva dalla strada e che adesso è un uomo d'oro, Jay-Z. Sean Corey Carter nasce a New York 4 dicembre del 69, pochi mesi dopo che lì vicino a Bethel si era svolto il festival di Woodstock, la più grande kermesse musicale dell'epoca hippie. Da quel mondo il piccolo Sean è veramente lontano. Lui vive nella Harlem di Brooklyn, si chiama il Bedford Stuyvesant. Anni dopo sarà la location del film di Spike Lee, Fai la cosa giusta, per esempio. Era l'ultimo dei miei quattro figli, l'unico per cui non ho provato dolore quando l'ho messo al mondo. Ed è così che ho capito che era un bambino speciale. Dirà di lui così la madre Gloria una volta che lui raggiungerà il successo, ma negli anni dell'infanzia ovviamente era molto difficile presumere un'epopea del genere. Eppure è un quartiere che pullula di ragazzini che diventeranno famosi, perché da quelle parti vivono già, non so, il piccolo Spike Lee, il piccolo Michael Jordan, il piccolo, se così si può dire, Mike Tyson. Nel giro di qualche anno nascerà anche Christopher George Latour Wallace III, che è meglio conosciuto come Notorious Big, che costruirà con Jay-Z un ottimo sodalizio artistico. L'infanzia di questo ragazzino, di Sean, è da dimenticare come quella di tutti i ragazzi della sua zona. Cresce nelle case popolari, in un ambiente degradato, dove scorre solo il denaro facile degli stupefacenti. Quando lui ha 11 anni, il padre abbandona lui, la madre e i suoi tre fratelli. Qualche mese dopo Sean spara al fratello maggiore perché è tossicodipendente, si chiama Eric, lo ferisce gravemente a un braccio perché è esasperato dalla sua violenza. A 13 anni comincia a spacciare droga, si rende protagonista di molti episodi di violenza con i rivali del quartiere. Insomma, come avrete intuito, in questi casi l'infanzia è veramente tormentata, lo dico perché il mondo hip hop italiano pullula di figli di papà che raccontano di essere arrivati dal ghetto e invece magari arrivano dai quartieri bene di una grande città. I grew up in around the 80s, right? Around in Mercy Projects in Brooklyn. Sono cresciuto nelle case popolari Mercy Projects a Brooklyn, un posto davvero duro. C'era una vera e propria epidemia di crack. I ragazzi di 15-16 anni avevano e usavano le pistole. Da noi non si vedevano bambini per strada che saltavano la corda o il carretto dei gelati, ma bambini che sparavano dappertutto. Per forza si cresce in fretta e l'innocenza dell'infanzia viene spazzata via in un attimo. You know, as a kid, a child should be able to just drop. Nel frattempo Sean va a scuola, frequenta senza successo la Ely Whitney High School a Brooklyn fino all'88, quando la scuola viene chiusa per elevato assenteismo e per l'aumento della violenza nelle aule, so, per farvi capire lo scenario. In seguito frequenta altre scuole nelle quali incontra i futuri rapper The Notorious B.A.G. e Busta Rhymes. e infine un'altra scuola nel New Jersey nella quale non riesce però a diplomarsi. Insomma, arriva adolescente, nato in una famiglia povera, senza un titolo di studio, è cresciuto in un ambiente criminale, senza lavoro, la sua vita si avvia a essere come quella di tanti altri disperati cittadini di New York che finiscono a mendicare, a dormire sotto un ponte della metropolitana quando non finiscono accoltellati per una banale lite. Ma c'è la differenza. La scintilla che cambia la vita di Sean porta la firma della madre, che dopo averlo sentito rappare gli regala una radio portatile per il suo compleanno, e questa è la svolta, il primo piccolo colpo d'ala. Perché lui inizia a cimentarsi con il freestyle, a scrivere rime hip hop, lo chiamano Jazzy, che nello slang del quartiere suona come il fighetto, quindi pensate come erano gli altri se lui viene chiamato il fighetto, perché gli altri ritengono che lui abbia un'eleganza un po' dissonante con il clima delle strade del cuore nero di Brooklyn. Così lui racconta con affetto la figura di sua madre Gloria in un'intervista televisiva. My mom was just such a strong woman. Mia madre era una donna forte, una donna forte e bellissima, che non mi ha mai permesso di compatirmi. Mi ha sempre spronato dicendomi che sarei potuto diventare tutto ciò che avrei voluto. Le sue parole sono state fonte di ispirazione. Io ero argilla e lei mi ha modellato. Nell'89, a 20 anni, appare nel programma televisivo di Yo MTV Raps, dedicato all'hip hop. Canta insieme a J.O., che è più anziano di lui, un po' il suo mentore, una canzone sua dal titolo The Originators. A questo punto Jesse contrae il suo soprannome, diventa Jay-Z, in omaggio a J.O., come riferimento alla stazione della metropolitana Jay-Z vicino a casa sua a Brooklyn. E così arriva il singolo di esordio, siamo nel 93, si chiama In My Lifetime, viene pubblicato da Ski, venduto per strada da Jay-Z e dal suo amico Damon Dash, dall'auto di quest'ultimo che funge da negozio. E lui però ha le idee chiare, entra subito in conflitto con i produttori, con i distributori per questioni di royalties, e così nel 95 decide di fondare una sua label, la Rockefeller Record. Jay-Z, lui ha talento, sa come sfruttarlo. Qualche anno dopo è già famoso e risponderà così alla domanda: qual è il tuo talento? Credo sia quello di riuscire a connettere persone anche lontane tra di loro attraverso le emozioni. Prendi ad esempio la canzone Hard Knock Life, che faceva parte di uno spettacolo di Broadway. È strano trovarla nell'album di un rapper, ma ciò che non è strano sono le sensazioni che la canzone racconta. Invece di essere viziati, veniamo fregati. Invece di essere baciati, veniamo presi a calci. E queste sono emozioni universali. Nessuno sarebbe contento di trovarsi in questa situazione, non importa dove si trovi al mondo o da dove provenga. You know, little black guy from Marcy does running around with drug dealers. Il falco e il gabbiano. Jay-Z è uno talentuoso e sa quello che vuole. Non ha ancora registrato un album, ma convince la Priority a credere in lui, a impegnarsi a distribuire il suo primo lavoro, che vedrà la luce poco tempo dopo. Siamo nel giugno del 96 e viene stampato Reasonable Doubt. Sono 15 tracce, 6 delle quali registrate con altri rapper, tra i quali Mary J. Blige, Notorious B.A.G. Insomma, è un disco che lo consacra come stella emergente dell'hip hop. Con questo disco raggiungerà il 23° posto della classifica Billboard, però i duetti con i pezzi grossi del mondo hip hop, uno si chiama Can't Knock the Hustle, appunto con Mary J. Blige, e l'altro Brooklyn's Finest con Notorious B.A.G., diventeranno dei classici del rap. E il successo maggiore però è un brano a due voci registrato con un certo Foxy Brown, che allora era meno celebre, e in Nonigga è entrato nelle top 50 degli USA. Nel 97 arriva il secondo album, In My Lifetime, volume 1, coprodotto con la Def Jam, e vede alla console un certo Puff Daddy. È l'album della popolarità, la tecnica eccellente, e come dicono oggi la rappata è fluida, ma a decretarne il successo è la grande creatività nei testi. L'album debutta al numero 3 delle classifiche statunitensi. Ci sono delle hit vincenti notevoli: You Must Love Me, Where I'm From, The City Is Mine. Insomma, c'è dentro anche la crema del rap di quel momento, tra cui ovviamente lo stesso Puff Daddy, e c'è anche un producer che si chiama DJ Premier. È il momento di partire in tournée, si va nelle arene, qui il live è convincente, la sua popolarità comincia a crescere e lui sforna album con grande facilità. L'idea vincente è quella di accostare a ogni disco un capitolo della sua vita, così l'anno dopo esce volume 2 Hard Knock Life, e gli regala un successo ancora più importante, la traccia che dà il titolo alla raccolta, con un pezzo famoso del coro tratto dal musical di Broadway Annie, diventa un singolo molto ascoltato, gli vale una nomination ai Grammy Award, Hard Knock Life. E questo è l'inizio di un periodo pazzesco, di un periodo fecondo che porterà Jay-Z a diventare la più grande stella dell'hip hop, e così parlerà del suo rapporto con la musica. I think again it goes back to a bit of what Warren was saying as well, like it's the discipline. La musica è come la borsa. Si sa, c'è quello che va molto in un momento, ci sono le sonorità elettroniche, ci sono le voci stonate, tutto quello che è nuovo ed eccitante. La gente tende a vivere emozioni e a prendere decisioni rimanendo attaccata a quello che conosce, alla moda del momento. Per me avere una disciplina significa avere fiducia in ciò che sono. E se entro in uno studio e trovo la mia verità del momento, ci saranno molte persone al mondo che potranno trovarsi in sintonia con me e che quindi apprezzeranno quello che faccio. Non perché io sia la moda del momento, ma perché esprimo le mie emozioni autentiche e descrivo il mondo come mi sento. Avere disciplina significa essere se stessi. Nel quarto album c'è un altro sconosciuto del tempo che collabora, 50 Cent. È del 99, ha una sonorità un po' più pop, si chiama volume 3 Life and Times of Sam Carter, vende 1 milione di copie nella prima settimana, 3 milioni in tutto. Il singolo più noto si chiama Big Pimpin. Nel 2000 lui inizia a lanciare nuovi musicisti, tra cui Benny Siegel e Freeway. Insomma, adesso è lui che battezza gli altri, e la sua attività però continua, quella di compositore, di cantante. Quinto album, The Dynasty, Rock la famiglia, la famiglia in questione è l'entourage, anzi, come direbbero loro, la crew. Chiama a raccolta delle persone, dei ragazzi che lui sta seguendo, Freeway, Memphis Black, Emil, DJ Clue, ma soprattutto un talentuoso che si chiama Benny Siegel, è presente in 8 dei 16 brani, ha un singolo trainante che funziona molto, si chiama I Just Wanna Love You. Il sesto album esce in una data nefasta, perché esce l'11 settembre 2001, quindi è il giorno dell'attentato alle Torri Gemelle. La città ovviamente è ferita, e non solo la città, è ferito tutto il mondo, e quindi per giorni e giorni insomma è difficile promuovere un album che esce l'11 settembre, non puoi certo pensare di essere al centro dell'interesse mediatico. Comunque debutta al primo posto della classifica americana, vende 426.000 copie nella prima settimana, 2 dischi di platino. Insomma, si difende, anche se le circostanze in questo caso sono contrarie. E poi c'è una raccolta che si chiama Renegade, c'è anche un emergente Eminem all'interno della squadra, e questo è l'album della consacrazione definitiva, con brani come Takeover, It's H.O.V.A. e Girls, Girls, Girls. insomma, Blueprint è una sorta di resa dei conti per Jay-Z, perché intanto attacca, come uso comune di quel mondo, tutti i suoi rivali, soprattutto Nas, che è uno con il quale lui ha una faida che sarà ricordata come una delle più lunghe dal mondo artistico. Nasce dal classico scontro che c'è tra la East e la West Coast americana, uno scontro del quale abbiamo già parlato, che ha lasciato sul terreno delle personalità note come Tupac Shakur e come l'amico d'infanzia di Jay-Z che è The Notorious B.A.G. E poi c'è una novità: 3 mesi dopo viene pubblicato un album che si chiama Unplugged. È strano per un rapper, perché è un disco che è una sorta di best of, però in versione acustica, registrato dal vivo negli studi di MTV. Quindi il rap che cresce e allarga i suoi orizzonti sonori. E nel novembre del 2002 siamo a una regolarità incredibile di un album ogni 10 mesi, viene pubblicato The Blueprint to The Gift and the Curse, 7° album in studio per Jay-Z. E questa è un'opera monstra, è una raccolta doppia, 25 brani, 110 minuti di musica, un cast che è ineguagliabile nella storia del rap. Ci sono Rakim, Lenny Kravitz, Faith Hill, Big Boy, Scarface. La quarta traccia del disco è un duetto con Beyoncé, e proprio durante la registrazione di questo pezzo scocca una scintilla tra Jay-Z e la voce delle Destiny's Child, quella che sta per decollare definitivamente, Beyoncé, che diventerà presto sua moglie. Questa è una relazione che, diciamo, fa volare entrambi sulle prime pagine dei tabloid. L'album vende 550.000 copie in una settimana, scalza dalla testa della classifica un'altra star rap del momento, che è Eminem. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Jay-Z, che è un rapper forse il più famoso del mondo, ma ancor più probabilmente il più ricco, perché è uno con un patrimonio da 450 milioni di dollari calcolato, dollaro più dollaro meno. In più è uno che nella vita se l'è goduta, ha una storia d'amore con Beyoncé, è uno che si è impegnato, perché, per dire, ha sempre supportato Barack Obama nella candidatura alla Casa Bianca. E insomma, una bella ascesa per un ragazzino che era cresciuto nel quartiere povero di Mercy a Brooklyn, però uno che col talento ha fatto veramente tanta strada. E nel 2003 arriva nei negozi The Black Album, l'ottavo disco. Jay-Z annuncia che sarà il suo ultimo lavoro solista prima del pensionamento per assenza di ispirazione, perché dice si annoia a causa della mancanza di concorrenza. I rapper sono sempre stati molto spavaldi. L'album è accolto benissimo dalla critica, debutta come al solito ormai in prima posizione in classifica, 460.000 copie vendute nella prima settimana, 4 milioni di dischi in totale. Dopodiché lui si prende una pausa di 3 anni, durante i quali si dedica alla produzione discografica, e incontra Rihanna e contribuisce in maniera sostanziale al suo successo. Nel 2005 chiude una vecchia disputa con un suo nemico storico, che era Nas, perché se lo compra, entra a far parte della scuderia Def Jam, di cui lui intanto è diventato presidente e amministratore delegato. Lo stesso anno MTV lo inserisce al primo posto nella lista dei più grandi di tutti i tempi. Ma ecco come lui parla dell'esperienza della gestione di una label, di un'etichetta discografica. I learned that being the president of a company is a thankless job. Io penso che essere il presidente di una società sia un compito ingrato. È meglio farlo per il bene più grande e non per te stesso, perché se hai un artista di successo, il merito è suo. Se sbaglia, la colpa è tua. È una situazione in cui non si vince mai a livello personale. Perciò è meglio concentrarsi sul bene più grande, e questo significa produrre grande musica e rendersi conto che non tutti possono avere successo. E penso che questa sia la cosa più importante. ma nel 2006 si ricomincia. Kingdom Come, nono album, un altro record battuto, 680.000 copie nella prima settimana, una nomination ai Grammy Award per la categoria Best Rap Album. E nonostante questo, lui lo considera uno dei suoi peggiori lavori, al punto che vuole quasi, come dire, disfarsi di questo fardello, e un anno dopo pubblica un altro album, il decimo, American Gangster, al quale collabora Nas, col quale, diciamo, si allontana un po' dai suoni degli inizi, va più verso il rock and soul, testi che cambiano, che maturano, affronta argomenti come l'uragano Katrina, le elezioni di Barack Obama e i pericoli dello showbiz, i pericoli della fama, della fortuna, insomma, entra in territori un po' più complessi. Ed è il momento dei fiori d'arancio. 4 aprile 2008 sposa la fidanzata storica Beyoncé, e l'anno dopo, l'8 settembre 2009, esce The Blueprint 3, undicesimo, penultimo album per ora in studio. È il terzo capitolo della trilogia e debutta ancora molto bene, 776.000 copie in due settimane, uno dei maggiori successi discografici del 2009, tenuto conto che il mercato nel frattempo si sta contraendo e lui vende 2 milioni e mezzo di copie nel mondo. È il suo undicesimo album che debutta nella classifica americana al numero 1, e quindi diventa l'artista con più album al debutto direttamente al numero 1, battendo Elvis Presley, che era fermo a quota 10. Forse non è il suo migliore lavoro, però riceve comunque il premio come miglior album rap hip hop agli American Music Awards, battendo gente come Eminem e T.I. e il suo stile sta cambiando col tempo, e lui parla proprio di questo in un'intervista. Quando ho iniziato a fare rap ero un bambino, avevo 9 anni e non avevo esperienza. Davo più importanza alla tecnica che a quello che dicevo. Cercavo di dire le cose in diversi modi, di scrivere rime più veloci, di usare lo stile della terzina. Ma più accumulavo esperienze di vita, più mi concentravo sulle storie che raccontavo e meno sulla tecnica, perché era più importante la verità di quello che stavo raccontando, le parole, le emozioni. Immaginatevi come possa crescere un bambino nel Mercy Projects, con i delinquenti nel corridoio, gli spari la domenica, vedendo per la prima volta a 9 anni qualcuno che viene ucciso. Provate ad immaginarlo. Nel 2011 Jay-Z si concede un esperimento, pubblica con Kanye West What's the Throne, che nella prima settimana viene distribuito in esclusiva su iTunes e vende 150.000 copie solo il primo giorno. E ci sono tematiche particolari, i problemi legati all'ego smisurato, alla fama, dall'autocelebrazione alla discriminazione razziale, insomma il rap in qualche modo, almeno con gente come lui, si candida a essere non solo cronaca ma parte poetica della cronaca attualizzata, di quello che accade ai giorni nostri. Quindi quando io più volte ho detto che i rapper potrebbero essere i nuovi cantautori, in casi come questo credo di avere detto il giusto. Poi se per rapper si intende l'autoreferenziale che ci vuole solo far sapere con quante donne va e quanti soldi ha, poi siamo il rapper de noantri, allora è un altro discorso. Ma qui invece siamo in Serie A. Poi c'è una canzone che si chiama Otis, che campiona la voce di Otis Redding, e con questo brano prende diverse nomination ai Grammy Award. Peraltro tutto questo costellato da un matrimonio che stranamente procede bene, quello con Beyoncé. Lei è innamorata del marito e ne parla così anche con Oprah Winfrey. And I would not be the woman I am if... Non sarei la donna che sono se non tornassi a casa da quell'uomo. Per me è davvero una solida base. Mi aiuta in molte cose. Prima di tutto eravamo amici. Abbiamo trascorso ore al telefono tutti i giorni per 1 anno e mezzo. Questa base è davvero importante per una relazione. È importante avere qualcuno che ti piace, qualcuno che sia onesto. Is so important, and someone that is honest. 7 gennaio 2012 viene al mondo la loro prima figlia, Blue Ivy Carter, a cui è dedicato il singolo Glory che sentiamo in sottofondo, con un testo che contiene riferimenti alla gravidanza della moglie, alla difficoltà della vita del rapper, ci sono i primi vagiti della piccola e, come sempre in questi casi, insomma, si alternano umanità e la strafottenza tipica dei rapper, perché poi alla bambina viene regalato un cavallo a dondolo d'oro massiccio. Ma queste sono le contraddizioni della grande fama e anche dei soldi che arrivano quando non ne hai avuti da piccolo. Altro esperimento, 12° e ultimo per ora album, che esce nel 2013, si chiama Magna Carta Holy Grail e inizialmente esce in download gratuito per i possessori di dispositivi Samsung attraverso appunto un'applicazione che si chiama Magna Carta. Vedete, anche nel rap, insomma, si comincia a cercare strade alternative per combattere la crisi. La Samsung acquista, diciamo, 1 milione di copie, nel senso lo dà a 1 milione di clienti, e per il disturbo vengono pagati 5 milioni di dollari al nostro protagonista. È il primo disco della storia della musica che ottiene un disco di platino lo stesso giorno dell'uscita. La critica non è molto entusiasta, ma come sappiamo non è che la critica cambi il destino di un artista. Forse è vero che negli ultimi anni la sua vena si è un po' esaurita, l'anima da businessman forse sta prevalendo su quella da artista e da compositore, però lui continua a difendere se stesso e il rap, che considera una forma di poesia moderna. Il rap è poesia. Fa riflettere, c'è del pensiero dietro. Nel rap c'è anche un grande lavoro di scrittura. Non si sente mai paragonare i rapper ai più grandi scrittori di tutti i tempi. Lo si dice di Bob Dylan, ma lo è anche Biggie Small. Pensate alle cose che ha scritto Biggie Small. Oppure Rakim. Ascoltatevi qualcuna delle cose che ha scritto. Se prendete i testi e li separate dalla musica e li scrivete sul muro da qualche parte e fate in modo che qualcuno li legga, direbbe: questo è un genio. Questa è opera di un genio. Oltre a scrivere meno, arrivano dei problemini nella vita privata. Cominciano a circolare nel 2015 delle voci sulle tensioni nel matrimonio, e la causa sarebbe che Beyoncé è un po' gelosa di Rihanna, che da sempre è stata protetta a livello artistico da Jay-Z. Pare che ci siano stati dei litigi, insomma, sappiamo come sono le donne, soprattutto quando vengono messe in competizione tra loro e soprattutto due star del genere. Addirittura si dice che Jay-Z avrebbe un telefono destinato solo alla comunicazione con Rihanna, e questo, insomma, a una moglie non è che possa fare molto piacere. E poi Rihanna è più giovane, e questo una donna non lo può sopportare. Si scopre che nel 2005, prima di sposarsi, i due si erano separati proprio a causa di Rihanna, che allora era poco meno che ventenne. Insomma, una querelle molto divertente se vista da fuori, ma probabilmente non se vissuta da dentro. E allora qualcuno ha iniziato a parlare di matrimonio d'affari, insomma, in questi momenti e lui comincia a essere etichettato come marito traditore. Vabbè, non mi sembra grave, anche perché la sua carriera prosegue al di là della musica. Ha partecipazioni importanti nei settori dell'abbigliamento, è proprietario di una squadra di basket, i Brooklyn Jets, comunque compartecipa nella proprietà dei Brooklyn Jets, e poi si occupa di marketing, di ristorazione, è anche filantropo, è un uomo dalle idee politiche molto chiare. Insomma, rappresenta esattamente il grande riscatto e la collocazione sociale in sfera alta del rap. Poi è schierato, e questa è una novità, è schierato per i diritti degli omosessuali. Sappiamo che il rap, insomma, è stato sempre storicamente un po' omofobo. Insomma, il ragazzino che vendeva droga nel suo quartiere è una delle stelle più lucenti del rap americano. 100 milioni di dischi venduti, 21 Grammy Awards, un patrimonio personale quantificato in oltre 500 milioni di dollari. La sua autobiografia diventa un fenomeno fenomeno editoriale. Lui dice di se stesso: sono un milionario che si è fatto da sé in questa società razzista. La vita privata è un altro discorso. Insomma, nel 2006 esce un album, si chiama Lemonade, è un album di Beyoncé, che sembra un po' una confessione della loro vita privata, tra canzoni su tradimenti, crisi, insomma, vabbè, ma tutto quanto fa spettacolo, anche perché alla fine lei canta la riconciliazione è possibile, loro appaiono più uniti che mai e probabilmente anche le riconciliazioni pubbliche frutteranno altri milioni di dollari. Ci sono storie di riscatto e di affermazione. Jay-Z è il riscatto, ma è anche quello che ha dato, uno tra quelli che hanno dato dignità e peso specifico al rap e poi anche alla capacità imprenditoriale. Se voi avete altre storie che volete che io racconti, non dovete far altro che scrivere al Falco il Gabbiano @radio24.it, visitare la nostra pagina, ricordandovi che se vi siete persi qualche puntata c'è sempre il podcast, e ricordandovi che sui miei Facebook, Twitter, sui nostri social potete come sempre trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.